Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. L'Europa oggi riparte da Rosetta, la sonda, infatti la sonda Rosetta ha concluso dopo 12 anni di servizio nello spazio la sua missione che era di fatto studiare, avvicinare, toccare, esplorare la cometa 67P. Oggi alle 13:20 l'impatto, dunque l'esploratore spaziale che da 12 anni è in orbita e a caccia della cometa si è schiantata sul corpo appunto della cometa. Un giorno speciale, un po' triste, un giorno felice, insomma sentimenti contrastanti per il direttore delle operazioni della missione Paolo Ferri dal centro di Darmstadt in Germania, il centro appunto di coordinamento dell'Agenzia Spaziale Europea. E ora invece torniamo a terra, i problemi sono quelli consueti, il tema dei migranti in piano, in questo fine settimana c'è anche il referendum in Ungheria, ne abbiamo parlato tante volte nelle settimane scorse per come è stato impostato, insomma sembra un referendum senza storia, sostanzialmente agli ungheresi viene chiesto se sono disponibili a far sì che l'Unione Europea decida per conto loro quella che deve essere la politica appunto nazionale di controllo, quindi il risultato non sembra di sicuro incerto, ma sentiamo una riflessione su questo giorno e sul senso di questo referendum dall'ISPI, Matteo Villa, sentiamolo. Per l'Europa è sicuramente un referendum sulla solidarietà, ormai sono 2 anni che si parla di quote da ridistribuire, di richiedenti asilo da ridistribuire agli altri paesi europei rispetto alle persone che arrivano da Italia e Grecia. Sappiamo che l'anno scorso si era arrivato a un accordo per ridistribuire 160.000 richiedenti asilo da questi paesi verso gli altri paesi europei e ad oggi ne abbiamo ridistribuiti 5.000. Orban quindi di fatto ha quasi vinto, di fatto senza neanche votare, perché i ricollocamenti sono più o meno falliti in tutta Europa. Ovviamente all'interno dell'Ungheria si tratta anche di un referendum sul governo, perché Orban da destra è minacciato dall'ascesa di partiti persino più radicali, per esempio Jobbik, il Movimento per un'Ungheria Migliore, che di fatto erode un po' di consensi e ha politiche xenofobe molto di destra. E infine a Lampedusa, 3 giorni sull'immigrazione, un appello di fatto dell'isola, delle comunità del sud dell'Europa al resto dell'Europa, perché appunto non sottovalutino quello che loro devono affrontare in primo piano. Servizio. L'Europa comincia a Lampedusa. Questo è il nome scelto per la 3 giorni di iniziative di sensibilizzazione sul tema migranti sull'isola siciliana. Workshop, laboratori, dibattiti e testimonianze sul significato di accoglienza in Europa, che vedranno partecipare più di 200 studenti provenienti da tutto il continente. Momento clou dell'iniziativa sarà lunedì 3 ottobre, quando verrà ricordato il naufragio di 3 anni fa al largo delle coste lampedusane. Le vittime furono 368. L'isola simbolo dell'accoglienza lancia però un appello all'Europa che sul tema fatica a trovare una posizione comune. La sindaca dell'isola, Giusy Nicolini, ribadisce che l'attuale sistema europeo di accoglienza dei migranti è respingente. Bisogna rivedere Dublino e costruire una rete tra i territori di frontiera. Intanto, i vari paesi europei affrontano in maniera diversa l'emergenza. Domenica in Ungheria il referendum sulle quote per la ricollocazione dei migranti. Secondo i sondaggi, la maggior parte degli ungheresi voterà, come indicato dal primo ministro conservatore Viktor Orbán, contro la ripartizione dei richiedenti asilo tracciata dall'Europa. A Calais proseguono i lavori di costruzione del muro antimigranti e nel sud dell'Europa prosegue il braccio di ferro con Bruxelles perché Italia, Spagna, Grecia non siano lasciate sole nella gestione della crisi. Renzi, intanto, propone di portare nella capitale UE il relitto del barcone affondato nell'aprile 2015 nel canale di Sicilia, con a bordo 400 persone. Un monito per le istituzioni europee, perché non si dimentichino le troppe morti nel Mediterraneo e si trovi presto una posizione comune. Francesca Conti, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso tutti convocati oggi con Giovanni Capuano, noi ci risentiamo lunedì. Buon fine settimana a tutti voi. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.